Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Siamo pronti, operativi come sempre dal Groovemaster Studio. Buonasera a tutti voi in contatto con Radio 24. Buonasera da Gegè Telesforo e vado subito a salutare e a ringraziare per la presenza nel Groovemaster Studio e per la partecipazione a questa puntata importante, anche se nel giorno del pesce di aprile, ma quello... la puntata di oggi non è uno scherzo, anzi è una cosa secondo me serissima, perché sono onorato di ospitare nel nostro studio Andrea Iacomini, che è il portavoce ufficiale di UNICEF Italia. Buonasera e benvenuto. Buonasera, sono davvero il portavoce dell'UNICEF Italia, grazie Gegè. Ecco, tanto insomma non stiamo facendo il pesce d'aprile, no, così. Appunto, quindi insomma ho ribadito quello che hai detto, quindi. Però sono contento che sei presente nel Groovemaster Studio nel giorno del pesce d'aprile, perché è una delle giornate più divertenti per i bambini, che sono la nostra priorità. Sì, assolutamente sì, anzi questo studio lo dovrebbero vedere i bambini, per quanto è bello una giornata come questa. Quindi ah, grazie. Sì, ebbene, insomma, ci sono i miei giocattoli preferiti, me li porto dietro da una vita. Giocattoli, direi, insomma, arnesi del mestiere eccezionali, quindi c'è proprio tanta storia qui. Ma vedi, a me piacciono gli americani proprio perché quando si parla di musica loro utilizzano un verbo che poi identifica anche il gioco, no? To play si usa per giocare e anche per suonare, quindi mi sento ancora oggi, dopo tanti anni di musica, da professionista, uno che si diverte con la musica, quindi il gioco deve far parte proprio della nostra professione, secondo me. Sì, poi questa è la grandezza, diciamo, no, della lingua inglese americana, no? Che con un verbo solo riesce a dire tantissime cose. In questo caso, praticamente, proprio specie nel caso nostro, che parliamo anche di bambini, quando si parla di to play si intende veramente di tutto, anche cose belle soprattutto, perché dobbiamo dirlo. Ecco, allora oggi noi vogliamo parlare del rapporto importante che esiste fra i bambini e la musica, anzi noi proprio stiamo lavorando su un progetto insieme. Io sono onorato di essere entrato ormai da qualche anno nella famiglia UNICEF, sono onorato del ruolo di testimonial e felice anche di aver realizzato per voi un progetto sul quale ormai stiamo lavorando da un po' di tempo e che sta per diventare una priorità di UNICEF Italia. Più di una priorità, perché la musica in tutte le attività che facciamo, devo dire, l'UNICEF è presente in 150 paesi del mondo e lo è naturalmente con tante attività, però spesso nell'immaginario collettivo si parla di aiuti a questi bambini sempre in termini concreti, no? Giustamente la bustina salvavita, gli aiuti come l'acqua, come il cibo. Poi però ci sono delle cose che cambiano la vita dei bambini, che sono attività. Tra queste la musica è quella principale, la più bella, la più grande, la più importante. Questo progetto, Gegè, è veramente unico, perché credo che l'UNICEF non abbia mai fatto delle cose così grandi, ed è mondiale, non è soltanto italiano, proprio perché attraverso la musica, come dire, dà uno scossone forte, diciamo, alle nostre attività, le rende sempre più grandi, fruibili, e dà soprattutto ai bambini una grande chance, che è quella che spesso in tanti casi manca. Negli ultimi appuntamenti del nostro soundcheck abbiamo anticipato questa tournée organizzata proprio per promuovere il progetto Sounds for Children per UNICEF. Oggi ne voglio parlare con te, ma voglio parlare anche di tante cose. Sono molto curioso perché per primo voglio sapere come sta andando l'attività di UNICEF Italia, di UNICEF a livello globale. Ci sono tante priorità, ne parleremo e parleremo naturalmente, ascolteremo bellissima musica. Per celebrarti, oggi ho fatto un airplay molto particolare. Tu sei nato nel 1974, sei nato in un momento di grande fermento musicale, anche per la black music. Tu sai che il nostro soundcheck in qualche modo celebra la nostra musica preferita, dal jazz al blues, insomma la black music in genere. Quindi invece di proporre novità, cosa che spesso facciamo con Francesco Tromba e Silvia Barba il sabato, oggi ti farò ascoltare agli appassionati di musica alcuni classici del soul importanti per perché hanno anche dei messaggi molto forti che furono lanciati allora, ma importanti ancora oggi. Il primo brano col quale apriamo il nostro appuntamento è una composizione divertentissima scritta da un signore, allora una celebrità negli Stati Uniti, da noi ancora oggi poco considerato, un signore chiamato Charles Wright. Il brano è fantastico, Express Yourself. Sì, è vero, insomma, è quello che dobbiamo fare noi adulti, lasciare liberi i bambini di esprimere la loro naturale personalità, la loro gioia, ma anche i loro malumori. Io a volte ne parlo con Andrea Iacomini, portavoce UNICEF, nostro ospite qui su Radio 24, in questo appuntamento del Soundcheck. A volte mi è capitato negli Stati Uniti di vedere una mamma di quelle biondone super fashion a Los Angeles che rimproverava il figlio perché non doveva piangere. Questa cosa mi colpì molto e mi irritò tantissimo. Invece io credo che i bambini debbano essere assolutamente liberi di esprimere i loro sentimenti. Soprattutto perché il bambino, quando manifesta un sentimento, probabilmente ha qualcosa da dirci. E quindi in qualche modo va assecondato, va ascoltato, e bisogna capirlo. Il modo peggiore è quello di bloccarlo. È come se appunto una persona volesse dire qualcosa e gli dici no, tu non puoi dirla. Il bambino si vuole esprimere, si esprime in questa maniera, si esprime con gli strumenti che ha, spesso non ha neanche molti vincoli, non ha neanche, no, non conosce quali sono, diciamo, le regole normalmente generali in quali noi purtroppo siamo completamente chiusi spesso, che ci bloccano, no? E quindi esprimersi per un bambino è fondamentale, lasciarlo esprimere, no? In tutto quello che fa, certo, naturalmente sempre nei limiti della decenza, certo, dell'educazione, però ecco, il bambino deve potersi esprimere. Questo è un esempio, ma ce ne sono tanti. Le mamme italiane, per non andare a tornare anche in Italia, non sono seconde a nessuno in questo senso, quindi sono molto protettive. Sì, molto attente, no? Sono molto protettive anche sui ragazzi di 30-40 anni, visto che da noi in Italia si esce fuori dalle famiglie, dalle case veramente tardi, no? Che restano bambini appunto, no? Tutta la vita, i bamboccioni si chiamano quelli. Esatto. Va bene, ma noi non parliamo di bamboccioni, parliamo di bambini, ascoltiamo musica. Allora direi di fare una cosa, Andrea, intanto vorrei raccontare brevemente la tua storia. Sì. Insomma, ormai c'hai una carriera, hai fatto una carriera fantastica, non solo come portavoce UNICEF, sei un giornalista, ti sei laureato, hai girato il mondo, poi a un certo punto che cosa è successo? Come sei entrato in UNICEF? Ma era un momento particolare della mia vita. Io in realtà venivo da un'esperienza molto diversa, che era di ambito politico. Mi sono ritrovato tra l'altro proprio in un passaggio particolare, dove sono stato chiamato a occuparmi di questa organizzazione all'inizio come capo ufficio stampa, quindi non facevo altro che guardare i comunicati che arrivavano dall'internazionale, quindi di tutti i tipi. Immaginate già che mi arrivava un foglio tutti i giorni, lo traducevo e lo mandavo. Il grande cambiamento c'è stato 2 anni dopo, 3 anni dopo, quando sono diventato portavoce. Lì l'organizzazione mi ha detto: adesso devi lasciare questo lavoro in ufficio, devi cominciare a girare il mondo. E lì è cambiato tutto, è cambiata la comunicazione, sono cambiato io, è cambiato tutto, perché quando poi le cose le vedi con i tuoi occhi e cominci a doverle poi raccontare, naturalmente è molto diverso che leggere un foglio di carta. Eh sì, hai toccato con mano la realtà, cambiano le prospettive, no? Sei andato proprio a vivere la vita dei ghetti del mondo. Esatto, le periferie, mi piace dirlo, le periferie dimenticate, quelle che non racconta nessuno. Soundcheck, il suono della musica. La voce, il suono della chitarra inimitabile di George Benson, da un album intitolato In Flight del 1977, il brano The World is a Ghetto, scritto da Alan Brown per la produzione di Tommy Lee Puma, un capolavoro. Nostro ospite al soundcheck di oggi qui su Radio 24, Andrea Iacomini, portavoce ufficiale di UNICEF Italia, con il quale vogliamo raccontarvi questo progetto fantastico che stiamo portando in giro in questi giorni, con una bellissima tournée con musicisti incredibili. Prossimamente saremo a Roma all'Auditorium Parco della Musica, esattamente il 5 di aprile, con una super band e tanti ospiti speciali. Progetto chiamato Sounds for Children, il suono della musica per i bambini, musicisti uniti per UNICEF. Rachef, ma prima di raccontare nei dettagli il progetto, Andrea, raccontami di UNICEF Italia, su che cosa è impegnato oggi, anche perché le priorità, noi parliamo, si sente molto UNICEF, è molto presente quando ci sono le emergenze, però bisogna pure chiarire che l'emergenza per quel che riguarda i bambini è una faccenda quotidiana. Sì, le emergenze esistono tutti i giorni, se pensiamo che ci sono 15.000 bambini che muoiono per cause prevenibili o curabili ogni giorno, anche in questo momento purtroppo Gigi, in cui parliamo io e te. UNICEF Italia è una grande famiglia, è una famiglia composta da professionisti, composta da volontari, tanti volontari che rappresentano veramente i muscoli della nostra organizzazione, e poi ci sono appunto le gambe di tanti donatori, tante persone che ci aiutano a raccogliere fondi, perché la nostra missione fondamentale è quella veramente di aiutare tutti i giorni, appunto, non solo nelle emergenze, quei paesi di cui non parla nessuno. Lo facciamo naturalmente attraverso delle campagne, le campagne di comunicazione, lo facciamo attraverso una grande rete di volontari in tutta Italia, attraverso appunto la sensibilizzazione delle istituzioni che con noi devono cercare di scoperchiare tutte quelle cose che non vanno in Italia. Pensiamo, noi abbiamo dei progetti sugli ospedali amici, sulle scuole amiche, perché l'UNICEF non opera soltanto, diciamo, nei paesi in via di sviluppo. Un tempo si sarebbe detto terzo mondo, all'epoca di George Benson, oggi no, oggi si parla appunto di paesi in via di sviluppo, neanche più questa edizione, va bene. E poi appunto ci occupiamo di poter, come dire, anche raccontare, che poi è il lavoro che faccio io, delle cose che non vanno. Poi adesso c'è l'emergenza dei migranti, che è il nuovo grande tema su cui siamo impegnati. Raccogliere fondi vuol dire, naturalmente, noi siamo l'unica agenzia delle Nazioni Unite, a differenza di altri, che vive su fondi propri, quindi vuol dire che noi viviamo sui fondi che ci donano gli italiani. Grazie alla credibilità che noi abbiamo acquisito in questi anni, noi raccogliamo questi fondi e poi li trasferiamo in progetti, progetti che riguardano l'acqua, progetti che riguardano la scuola, perché portiamo tanti, tanti milioni di bambini a scuola, progetti che riguardano le malattie, la cura, le vaccinazioni, progetti che riguardano naturalmente la lotta a delle calamità, chiamiamole così, tremende, come i matrimoni precoci, come la mutilazione genitale femminile, e poi appunto l'aiuto invece nelle emergenze di cui si parla poco, non quelle che accadono come i terremoti, quelle di cui si parla poco, le guerre che magari iniziano e che, di cui non parla nessuno e che poi diventano catastrofi, ma iniziano come tragedie. Pensiamo allo Yemen, pensiamo all'Iraq, pensiamo alla Siria. Ecco, noi siamo lì, i nostri staff sono lì, aiutiamo con questi soldi, diciamolo, ecco, tu lo sai, ma lo vogliamo dire agli spettatori, aiutiamo quel numero incredibile di professionisti, di angeli, di uomini veramente santi dell'UNICEF che stanno lì nei campi profughi, in queste zone 24 ore vicino alle popolazioni che fuggono, che soffrono, che vivono in povertà, in carestia, spesso appunto che fuggono dalle guerre e che hanno bisogno di tutto. Noi portiamo quel tutto. Come si fa a diventare volontari UNICEF? Volontari per l'UNICEF, innanzitutto io credo che essere volontario è qualcosa che scatta improvvisamente, non c'è una procedura standard per la quale uno togliamo le burocrazie da queste cose. Volontario dell'UNICEF è una persona, secondo me, che ascolta, che ci ha conosciuto, che ci ha incrociato, che ti ha visto, Gigi, nelle cose che abbiamo fatto e che ha ascoltato raccontare, e che fa? Fa una telefonata a un comitato locale che si trova in una qualsiasi regione o provincia italiana e decide di aiutarci. Come? Nelle piazze dove siamo presenti con tanti progetti, le orchidee, le conoscono tutti, insomma, i famosi banchetti. Oppure come volontari possono occuparsi naturalmente di altre iniziative che sui territori noi facciamo, sono meravigliose. Abbiamo tantissimi, tantissimi ragazzi e ragazze, addirittura i giovani possono iscriversi al movimento che si chiama UNICEF, che sono un gruppo di giovani meravigliosi in tutta Italia che inventano cose straordinarie, feste, perché i giovani questo devono fare, appuntamenti aperitivi, tutte raccolte fondi per un progetto particolare per i bambini. Diventare volontario basta iscriversi a un albo, in Italia ci sono oltre 5.000 volontari, e poi si inizia a far parte della nostra grande famiglia. Della grande famiglia. Naturalmente il tutto viene sostenuto dalle donazioni di piccoli e grandi donatori. Sì. Qual è la differenza? Beh, facile, già, secondo me, insomma, si capisce, guarda, però si capisce anche nel se dettaglio. Io dirò una cosa estremamente retorica, ma chiedo subito perdono. Tutti sono grandi donatori, nel senso che secondo me anche chi dona poco, questo ce lo insegna il Vangelo se vogliamo, ma insomma non devo essere io a dirlo, anche chi dona poco in fondo è un grande donatore, però è chiaro che il grosso di questo lo fanno delle aziende che in partnership con noi sostengono i nostri progetti, lo fanno delle grandi campagne collegate sempre a queste grandi realtà che ci aiutano, e invece i piccoli donatori sono quelle persone che magari, ecco, ogni giorno decidono di donare, ogni mese diventare amici dell'UNICEF e donare una quota del loro stipendio, dei loro risparmi alla nostra organizzazione. Spinning Wheel, Blood, Sweat and Tears al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Un altro classico qui al Soundcheck di Radio 24, che groove, quello di Gil Scott Heron, In the Bottle. Nostro ospite Andrea Iacomini, sono contento di vederti. Andrea, portavoce di UNICEF Italia, noi ci siamo incontrati molto spesso negli ultimi anni e ci siamo conosciuti, vi dico anche quando, in occasione dell'International Jazz Day dell'UNESCO. Esatto. E naturalmente tu eri presente perché quella giornata, in particolare al Teatro Argentina, con musicisti fantastici, mi ricordo il quintetto di Stefano Di Battista, ma c'era anche Piero Angela sul palco, UNICEF era presente, tu eri presente sul palco perché raccontasti le priorità in quel momento. Sono cambiate? No, era un grande progetto e fu una serata emozionante davvero, grandissimi artisti tutti insieme per la Siria. Noi parlammo proprio e raccogliemmo fondi per la Siria, che in quei giorni non era ancora il disastro umanitario di cui, diciamo, parliamo oggi e che conoscono tutti, perché adesso i radioascoltatori sanno di cosa parliamo. Sì. Però quando facevamo quell'iniziativa se ne parlava ancora poco. Fammi dire, Gege, però, che io in realtà ti ho conosciuto molto prima da fan, diciamolo, perché insomma, voglio dire, io seguivo i concerti di Gege già da semplice cittadino e ero stato appunto alle tue ultime performance, quindi in realtà poi per me era stata una scoperta, diciamo, tra virgolette. Grazie, e io ti voglio ringraziare perché proprio in quell'occasione, mi sa ormai 4-5 anni fa, quattro anni fa, io rimasi molto colpito dalle storie che raccontasti, le immagini, le fotografie, e iniziai quindi a elaborare un'idea. E poi è successo che ho incontrato un giovane appassionato di musica che lavora in UNICEF, che è Alessandro Rusignolo. E parlando con lui gli ho detto: senti, ma a me mi sta venendo un'idea, ma avete mai lavorato con la musica? Cioè, ma avete mai fatto un progetto? Lui ha detto: no, la verità, io pure ci ho pensato qualche volta. Allora guarda, fra un po', dammi un po' di tempo, poi ti presento qualcosa. E così sono andate le cose e oggi io sono veramente emozionato, perché il fatto di sapere che un'idea realizzata così, per la passione per la musica, ma anche per l'amore che uno ha naturalmente per i bambini. Io ho una figlia, quindi è una cosa molto naturale per me, no? Perché capisci subito le problematiche quando ce le hai poi in casa. E anche perché mi ricordo quando ero bambino, io vengo da una città abbastanza funky, che è Foggia. Se pensi che adesso a 30 km da Foggia, a San Severo, c'è il Far West, quindi puoi immaginare che tipo di background comunque ho vissuto, e capii subito che la musica era la mia salvezza. Posso dire una cosa su San Severo, Gege? Io sono stato premiato a ottobre a San Severo con il premio Cutuli. San Severo non è la città solo degli spari, questo diciamolo, e Foggia non è soltanto una città fantastica dove c'è un grandissimo, tra l'altro, come dire, movimento culturale, tra cui appunto questi premi straordinari dedicati al giornalismo. Questo lo dobbiamo dire, che purtroppo dobbiamo aiutare anche con la musica, secondo me, anche con questi progetti a rinascere, una cosa secondo me molto bella. E poi hai detto una cosa interessante, è vero, c'era un collega che ti ha, come dire, Alessandro Rusignolo. Ecco, questa è una cosa che il nostro direttore Paolo Rozzero ha fatto subito quando è arrivato all'UNICEF. Ha detto: se qualcuno di voi ha delle passioni che vanno fuori dal vostro lavoro ordinario, le comunicasse all'organizzazione. Questa non è una cosa che fanno tutti, perché magari attraverso le vostre passioni, che non sono quelle quotidiane lavorative, dove sappiamo che non tutti fanno il lavoro come me, io amo il mio lavoro, ma c'è qualcuno, faccio il giornalista, c'è qualcuno che proprio non è, che ama il proprio lavoro. Ecco, dice: perché non mi suggerite delle cose che riguardano le vostre passioni esterne da qui, che magari escono fuori dei progetti straordinari per l'UNICEF? Sounds for Children è proprio il prodotto di questo, della passione di un collega che viene trasferita dentro praticamente contesto. Però diciamo anche che non è stata una cosa automatica, perché prima di diventare un progetto operativo, insomma, ci abbiamo lavorato e abbiamo fatto la nostra sperimentazione, quale vi parleremo fra pochissimo, perché è straordinaria. È una cosa molto forte. Allora, stiamo quasi per chiudere la prima parte del nostro soundcheck e andare direttamente all'informazione importantissima di Radio 24. Ci andiamo con un altro classico, la voce, forse il falsetto più bello della soul music, un vero intellettuale, naturalmente scomparso. Move On Up, Curtis Mayfield, al soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Siete di nuovo collegati con il Groovemaster Studio per la seconda parte del Soundcheck di Radio 24 con Gegé Telesforo e Andrea Iacomini, nostro ospite, portavoce ufficiale Unicef. Dico ufficiale, no? Sì. Nel vero senso della parola, mi fa no? Pensare... Perché chiunque può parlare dell'Unicef, ma tu sei quello ufficiale, sì. No? Sì, mi fa pensare, Gegé, a no, diffidare dalle imitazioni in qualche modo, no? Nel senso che non ce ne sono altri. Sì, il portavoce ufficiale sono io, nel senso, quello che deve metterci la faccia a volte... quasi sempre, tutti i giorni. Allora io ho una domanda subito per te. Ti sei preparato su Sounds for Children? Perché ti toccherà anche parlarne fra un po'. Sì, io sono pronto, però vorrei fare invece un lavoro inverso. Per un secondo mi sostituirei a te. Perché insomma non c'è niente di più bello che parlare di qualcosa che si è creato. E questo progetto è tuo, anzi se posso. Io Sounds for Children non l'ho letto. Non è un progetto che ho letto. Io Sounds for Children l'ho ascoltato e l'ho visto. E vi dico quando e vi dico come. Mi avvicinava ad un inizia centro... a essere quasi una leggenda da tramandare. Esatto, no, la dobbiamo raccontare come una leggenda, perché è iniziato, io ho sentito un rumore di tamburi lontani mentre mi avvicinavo ad un centro di accoglienza in Sicilia. A Trabia. Sì. Sentivo tamburi. Raccontiamo bene, a Trabia c'è un centro di accoglienza proprio per gli adolescenti... che arrivano non accompagnati. Non accompagnati, sì. Profughi, insomma, quelli che attraversano il Mediterraneo sui barconi, quelli che hanno visto i genitori annegare, i fratelli, gli amici, quindi... E sono dei ragazzi, perché in quel momento a Trabia si raccontava anche questo, che erano particolarmente nervosi. Perché questi ragazzi spesso si trovano in questi centri in condizioni abbastanza difficili, no? Hanno bisogno di fare cose. Questa è una delle attività che noi stiamo proponendo al governo, è facciamo fare a questi minori non accompagnati attività, facciamogli studiare l'italiano. E io sentivo questo rumore, i tamburi, lontano, che cresceva. Entro e vedo uno spettacolo meraviglioso, Gegé con uno staff di musicisti, amici, colleghi palermitani, tamburi, fantastici. Strumenti e ragazzi di tutte le etnie, di varie nazionalità, chi dal Gambia, chi dal Senegal, che ballavano, si esprimevano, Gegé che cantava con loro, uno spettacolo straordinario, sembrava chiusi gli occhi di stare in un villaggio da dove loro venivano. E mi ricordo questa scena di tutti questi funzionari delle Nazioni Unite, noi dell'Unicef, i volontari, che iniziamo a ballare, iniziamo a seguire questo ritmo straordinario. Emozionante, io non nascondo che mi sono proprio commosso con le lacrime. E, la cosa forte è che noi siamo arrivati prima di voi, con le macchine, con gli amici, i musicisti palermitani, macchine piene di strumenti a percussione. Io avevo chiesto, questa è una super band che di solito devota alla musica brasiliana con influenze naturalmente afro, giamaicane e tutto quello che il ritmo può dare di buono. E quindi quando siamo arrivati con le macchine abbiamo iniziato a tirare fuori i tamburi e questi ragazzi ci guardavano e dicevano: ma questi sono che vogliono da noi? Fatto sta che i primi si sono avvicinati, io ho iniziato a comunicare ma forse neanche in inglese né in italiano, proprio come dire, ritmicamente, ecco, ho iniziato a comunicare con il ritmo, con la voce ed è partita una jam session con dei ragazzi fantastici che per 3 ore hanno suonato e ballato, hanno pianto, si sono emozionati e per 3 ore, la cosa più importante è questo, è quello che fa la musica, hanno dimenticato tutte le cose brutte che avevano vissuto e il momento che stavano vivendo, perché insomma ritrovarsi dopo 2 o 3 giorni da uno sbarco in un altro paese senza prospettive per il futuro, forse è la cosa più difficile da affrontare. E Sounds for Children parte proprio da questo. Soundcheck, il suono della musica. 2 campioni di musica, Herbie Hancock e Stevie Wonder, in un classico del jazz di William Christopher Handy intitolato St. Louis Blues. Naturalmente questa è una versione contemporanea di un classico proprio della tradizione del jazz. Herbie Hancock, anche lui è un ambasciatore dell'UNESCO, proprio sull'attività di Herbie Hancock che ruota tutta l'organizzazione dell'International Jazz Day che avverrà proprio a fine aprile, il 30 di aprile. Tra l'altro io vorrei... siamo creativi, quindi le cose ce le diciamo subito, mio caro Andrea Iacomini, portavoce Unicef e nostro ospite per parlare del progetto Sounds for Children. Ci stiamo arrivando piano piano, però io vorrei subito rilanciare adesso, siccome noi ci siamo conosciuti in occasione di un International Jazz Day anni fa, Adesso abbiamo il progetto Sounds for Children in mano. Il 30 di aprile arriva l'International Jazz Day. Che vogliamo fare? Chiamiamo gli amici dell'UNESCO e facciamo qualcosa insieme. Dobbiamo assolutamente tornare tutti insieme a fare a fare qualcosa. Portare Sounds for Children proprio al festival. Allora, appena chiudiamo la trasmissione, chiamiamo gli amici dell'UNESCO e cerchiamo di capire che cosa possiamo fare per il 30 di aprile. Speriamo di riuscirci. Cioè. Fatto sta che Sounds for Children è diventata una realtà e lo stiamo portando in giro proprio per promuovere questo progetto. Adesso lo stiamo facendo proprio con la musica attivamente sui palcoscenici. Abbiamo già fatto 4 concerti, ma il 5 aprile torniamo a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, con tanti ospiti. Il 6 siamo a Bologna, al Bravo Caffè. Poi andiamo al Torrione, un fantastico jazz club che si trova a Ferrara, il 7 aprile. Chiudiamo l'8 di aprile al Blue Note di Milano. Ed è bello, vedi, proprio c'è una continuità, perché proprio al Blue Note di Milano il presidente Guerrera mi concesse il privilegio di diventare, con la consegna della pergamena, testimonial UNICEF. Allora, Sounds for Children, che cos'è Sounds for Children? Il sottotitolo che abbiamo dato è United Musicians for UNICEF, cioè quanto è importante il ruolo della musica che con sé porta dei valori naturali e trasmettere questi valori attraverso la musica ai bambini. Quindi non è un progetto con il quale vogliamo fare didattica, non vogliamo mettere su delle scuole di musica, per quanto quello è anche un obiettivo importante, ma intanto istruire attraverso i valori della musica, far capire ai bambini che ci sono, si può vivere in maniera diversa, no? Sì, si può vivere in maniera diversa, si possono conoscere in realtà in maniera diversa. La musica ha questo straordinario messaggio che arriva dritto, no? Immediatamente, che i bambini secondo me recepiscono meglio di chiunque altro. Questo progetto secondo me è immenso, è meraviglioso proprio per questo, perché ha una funzione sicuramente didattica, come hai detto tu, nella sua seconda stesura, nel suo secondo sviluppo, però in sé questo punta a tante cose, no? Tant'è vero che io, quando ho scritto il progetto, non so, lo leggo, perché ho scritto proprio questo, ve l'ho presentato dicendovi che la musica mi ha concesso il privilegio di vivere liberamente i momenti più emozionanti della mia esistenza, e continuo a farlo, e mi ha fatto crescere con la consapevolezza che la cosa più importante della vita è sentirsi capaci e liberi di esprimersi e di comunicare. La musica mi ha educato ad individuare il mio spazio e ad avere rispetto per quello degli altri. E naturalmente poi conosciamo la forza della musica, che supera ostacoli, barriere culturali, religiose, politiche, ci fa sentire liberi anche chiusi nelle nostre stanzette, e ci fa vivere una realtà diversa, perché i bambini, e noi abbiamo vissuto l'esperienza proprio con i bambini della scuola Gandhi, ci sono dei bambini che vengono e provengono da famiglie in contesti sociali difficili, e famiglie che hanno problematiche notevoli. A proposito di scuola Gandhi, perché noi abbiamo una collega, Chiara, che ci chiedeva, dovete parlarne, no? di questo meraviglioso esperimento. Ecco, io ti riporto, Gegè, quello che le persone che erano presenti hanno raccontato, perché poi è, come dire, il risultato di come Sounds for Children sounds good, si direbbe in americano. Sì. Cioè, questi bambini, che erano, come ricordiamolo, figli di situazioni di disagio, cioè papà e mamma che non sono come i nostri, insomma, vivono in condizioni difficili, avevano un'attenzione, avevano gli occhi accesi di fronte a quello che tu stavi comunicando loro, no? Anche i piccoli accenni musicali, poi tu sai meglio di me cosa è accaduto in quel momento, l'emozione che hai provato, però è bello raccontarlo, perché Sounds for Children ha le sue già immediate applicazioni, e vederlo in un contesto di difficoltà come quello per noi è un gol. Can you hear me? Sound check. Il suono della musica. Eh sì, avevo appena iniziato a lavorare per Sounds for Children sul progetto, e contemporaneamente ero impegnato nella produzione di questo album intitolato Fun Slow Ride. Il brano Led the Children è stato proprio un brano che ho dedicato all'attività dell'UNICEF dedicato ai bambini, con un testo bellissimo scritto da Ben Sidran, ispirato, e Greta Panettieri, una delle mie autrici preferite, che tra l'altro sarà fra i guest al concerto del 5 di aprile all'Auditorium Parco della Musica a Roma, quindi noi ci vediamo fra qualche giorno, ci saremo tutti. Andrea, quindi testo ispirato a un passo di Il profeta di Khalil Gibran, no? Che parla proprio dei bambini. Insomma, sono molto legato a questo libro che ho letto più volte, e quindi ci siamo rifatti a uno degli scritti di questa bellissima pubblicazione. Però anche tu stai per pubblicare, anzi hai pubblicato qualcosa, tu scrivi anche romanzi. Sì, è uscito un romanzo. Hai scritto varie cose, però adesso hai scritto un romanzo che presenterò a Roma proprio il 4 aprile alle 6:30. Quindi fra qualche giorno alla Casa del Cinema. È un percorso un po' particolare, perché è un romanzo in parte autobiografico che racconta un po' la mia vita, si intitola Il giorno dopo, e dall'altro invece racconta la vita del protagonista, che attraverso proprio i viaggi che ho fatto in Iraq, in Libano ed in Giordania. Lo presento alla Casa del Cinema alle 6:30, anzi spero che tu ci sarai, Roma. Naturalmente a Roma, sì, ed è un percorso un po' al contrario, perché in realtà ho fatto 30 presentazioni in giro per l'Italia e ho deciso al contrario di non iniziare dalla mia città ma di finire, diciamo, con la mia città, quindi Roma sarà, diciamo, il punto di ripartenza, diciamo, di questo libro, che racconta poi come tutti i bambini. Ecco, a proposito di San Forgione, mi hai portato una copia. Sì, ho una copia perché per adesso te, facciamo io ti do una copia di Fans Low Ride, così potrei arrivare preparato al concerto. Ci saranno tanti ospiti, insomma, lo ripeto, anche la fortissima Joanna Titters, che è arrivata da New York e sta avendo un successo clamoroso in giro per l'Italia, ma poi tanti ospiti, guarda. Tante belle sorprese. Il precedente concerto di New Joy c'erano già grandi ospiti, mi ricordo qualche anno fa all'Auditorium Parco della Musica, quindi mi aspetto anche questa volta, GG, di provare le stesse emozioni. Sì, io non do mai nulla per scontato, però siamo pronti per fare una splendida performance, e poi siamo motivati in questa occasione più che mai. Questa volta abbiamo gli occhi dei bambini puntati. Allora, dicevamo di Sounds for Children. Prestissimo, proprio nel sito UNICEF, troverete tutte le informazioni. Questo lo dico per tutti gli amici che vorranno saperne di più e potranno chiedere informazioni e quindi diventare parte attiva. Noi abbiamo bisogno sul campo, in tutte le città italiane, di formidabili musicisti appassionati, pieni di entusiasmo e che riescano a portare forti emozioni nei contesti sociali che UNICEF vi indicherà nelle varie località. Quindi stiamo parlando da ospedali pediatrici, campi profughi, i campi dei Rom, i centri di accoglienza. Insomma, c'è molto da fare, e sono convinto che la musica aiuterà questi ragazzi, se non altro a dimenticare, come dicevamo prima, per qualche ora le problematiche che vivono. Oppure, ed è un'altra cosa secondo me grandissima che sta dentro Sounds for Children, a trovare la propria strada, perché chi sa cosa accade quando magari in uno di questi incontri che tu farai o faremo in giro per l'Italia, qualche ragazzo attraverso questa musica, attraverso questi suoni, non trovi la propria strada, non diventi un nuovo GG o magari trovi la sua strada. Penso sempre che poi un bambino, spesso a me è capitato in altri ambiti, no? Si accende la fiammella quando ascolti qualcosa che non hai mai ascoltato e che magari senti che quello è il tuo futuro, la tua vita. Quindi io auspico che Sounds for Children sia anche un grandissimo luogo di dove si possono scoprire dei talenti. Insomma, tanto per ricordare qualcosa, un famoso musicologo, Alan P. Merriam, già nel 1964, in un libro formidabile che secondo me noi dovremmo far ripubblicare in italiano, The Anthropology of Music, elencò le funzioni primarie della musica. Non le elenco tutte, dico secondo me quelle più importanti. Insomma, espressione delle emozioni, piacere estetico, intrattenimento, comunicazione, rappresentazione simbolica, reazione fisica, consolidamento della comunità e delle relazioni sociali, questo è importantissimo, convalida delle istituzioni sociali e dei rituali religiosi, contributo alla continuità e stabilità culturale, contributo all'integrazione della società. Questo è importantissimo, perché secondo me ci sono due parole chiave per capire quale potrà essere il nostro futuro rappresentato dai nostri bambini, e sono multietnicità e integrazione. Soundcheck, il suono della musica. money. I Shot the Sheriff, brano che stiamo proponendo dal vivo, un vecchio classico di Bob Marley, qua nella versione di Funk's Low Ride con la voce del formidabile Moses Petru, che cercheremo di coinvolgere magari in un prossimo tour. Però voglio ripetere le date del progetto Sounds for Children, lo stiamo portando in giro dal vivo, live, con un formidabile concerto, tanti talenti, a Roma il 5 di aprile all'Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, speriamo di vedervi numerosi, il 6 di aprile a Bologna al Bravo Caffè, 7 di aprile a Ferrara al Torrione, chiudiamo il 9 di aprile a Milano al Blue Note. Io ringrazio per la partecipazione Andrea Iacomini, portavoce UNICEF. Non è stato facile rintracciarti, sei sempre in giro. Eh sì, perché quest'anno ho iniziato un tour che tra l'altro il proseguimento di un altro tour che avevo iniziato 2 anni fa, che ha toccato 200 città, dove vado a raccontare queste emergenze che ci sono nel mondo. Consentimi, Gege, però, di ringraziare innanzitutto i radioascoltatori che sono stati con noi, di ringraziare Radio 24. Sì, Radio 24 è stata formidabile perché ha supportato il progetto e lo fa sempre quando si tratta di UNICEF e quando si tratta di musica di qualità. Esatto, di ringraziare te. A proposito di musica di qualità, al di là di I Shot the Sheriff, io purtroppo, come dire, nell'ascoltare musica così di questo livello altissimo mi sono un po' vergognato della mia cultura invece tutta di musica pop anni 80, che chiaramente di fronte a tutto questo è nulla. Però vorrei chiudere con una piccola sorpresa per te, perché è una cosa bellissima. Abbiamo iniziato la trasmissione dicendo che io sono il portavoce ufficiale. Ecco, il 5 sera però aprile, al termine proprio della tua esibizione, avverrà un fatto molto importante che ti riguarda. Perché tu diventerai più di un portavoce ufficiale, diventerai proprio l'immagine dell'UNICEF in Italia e spero nel mondo, perché il presidente dell'UNICEF Giacomo Guerrera ti nominerà Goodwill Ambassador, cioè ambasciatore dell'UNICEF. Mi sto emozionando Italia. Adesso, figurati quindi quando lo farà. Non sei più testimonial che fa una cosa spot, diventerai ambasciatore dell'UNICEF Italia, il che vuol dire, diciamo, che al pari di tante grandi personalità che in Italia e nel mondo ci rappresentano, ecco, adesso dovrai portare anche tu il fardello. Mi viene subito attività. Anche un po' per. Io mi sto emozionando, però è vero che l'ambasciatore non porta pene? No, sì. Invece le porta. In questo caso forse ne porta. Però ci aiuterai anche a risolverne tante. Mamma quindi, mia. Diciamo, avverrà questa nomina, lo diciamo in anticipo proprio qui ai microfoni di Radio 24, e quindi mi fa piacere. Devo bere un bicchiere d'acqua. Farti un grande adesso. In bocca al lupo e dirti grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Grazie a voi, grazie all'UNICEF, grazie a Radio 24 e noi ci risentiamo domani alle 19:15 qui su Radio 24 per il soundcheck. Sono un po' confuso, non ti sei accorto? Queste sono quelle notizie che... Mamma mia, grazie Andrea Iacomini, grazie a tutti, e chiudiamo, allora, visto che abbiamo ascoltato la versione contemporanea Funk's Low Ride per A Shot the Sheriff, chiudiamo con un uomo di bellezza e di pace come Bob Marley, e questo è Jammin'. Grazie a tutti voi.